distingo soltanto due tipi di gente che tra me, bro. E chi? No. Se non sono tra i miei, bro. Metti? No. Qui non siamo a un talent show. Sono un cane sciolto. Tutte ste persone, boh, neanche le conosco. Non ci trovi al chiosco. Siamo in mezzo a un bosco. Ogni misa merda mi fa diventare un mostro. Noi non stiamo bene, però stiamo al primo posto. Accendo la tele, ci sta qualche amico nostro. Non so se hai capito che non giro con chi mi conviene, ma con chi ci tiene. Da quando non ero nessuno con la stessa gente. No che non sono per bene, ma tienilo a mente. Per me darebbero un re, sti soldi non valgono niente. Circondati da vipere, siamo strafatti a ridere. Siamo dei casi limite. Non ho mai avuto amici normali, l'infami li scarto a prescindere. No, non mi fotte degli altri, fra, perché con gli altri niente da dividere. Non divido niente con te, yeah. Non divido niente con te, non divido niente con te, yeah. Non divido niente con te, non divido niente con te, yeah. Non divido niente con te. Non divido niente con te, non divido niente con te, yeah. Fumo con i bro, bro la passo piano. Sempre chiuso in casa tipo il gastolano. Troppo fuso, non so dove cazzo stiamo. Non so dove cazzo stiamo. Gli amici ce ne ho 100. Diciamo sì su Facebook. Ci parlo con un terzo. Diciamo sì nemmeno. Sentiamoci a Milano, che tanto ci torniamo. Sti soldi li sogniamo, mentre li rincorriamo. Fra, lavoro con i miei bro che devo fare il cash. E li voglio fare in fretta, voglio fare flash. E non voglio stare a fresco, voglio stare fresh. In pensione a 40 anni senza più lo stress. So come gira quindi i miei, me li tengo stretti. Non come i retti, li infetti dei tuoi amichetti. Ma che scherzi, siamo sempre gli stessi depressi. Ma sta merda fa pezzi, la prezzo. Circondati da vipere, stiamo strafatti a ridere. Siamo dei casi limite. Non ho mai avuto amici normali, l'infami li scarto a prescindere. No, non mi fotte degli altri, fra, perché con gli altri niente da dividere. Non divido niente con te, yeah. Non divido niente con te, non divido niente con te, yeah. Non divido niente con te, non divido niente con te, yeah. Non divido niente con te. Non divido niente con te, non divido niente con te, yeah.